Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono per, come diceva Willy, che ringrazio per la pomposa introduzione, prima trasmissione della stagione 2025-2026 di Città Fujiko Live Club. Naturalmente siamo su Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Città Fujiko Live Club si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica registrata dal vivo, musica rigorosamente ufficiale, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, e di tutte le epoche, ma non tutti i generi. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e quest'oggi naturalmente non si esime dal presentarvela, una novità che tengo a ribadire ancora una volta è novità per quel che riguarda la mia trasmissione. Questo dischetto che vi vado a programmare è uscito ormai da qualche mese, ma è una novità per quel che riguarda la mia trasmissione, cioè io non l'ho mai trasmesso da queste frequenze. E naturalmente, essendo la prima trasmissione della nuova serie, non poteva non essere una cosa speciale. E infatti è l'ennesimo album live di un grandissimo personaggio che si chiama Neil Young. Non starò a disquisire sull'enormità musicale di questo personaggio, diciamo anche forse a volte un po' controverso, dirò solamente che lui è canadese, ma da qualche anno ha preso la cittadinanza americana, parole sue, per votare contro Trump, e purtroppo non è andato a buon fine la cosa. Lui ha iniziato gli anni 60 con una band che si chiama Squires, dopodiché dal 66 al 68 è stato uno dei membri fondatori dei Buffalo Springfield. Dopo il 68 si sono riuniti in qualche occasione, ma sporadicamente, e dal 1968 poi ha avviato una carriera solista che continua tuttora, inframmezzata dal 69 al 70, sto parlando del 1900 naturalmente, da Crosby, Stills, Nash & Young, supergruppo che spero tutti conosciate, anche in questo caso con diverse riunioni in seguito. Neil Young ha alternato la sua carriera concertistica in due fasi, la prima quella accompagnato da una band, solitamente erano i Crazy Horse, ma poi ce ne sono tanti altri, l'ultima band si chiama Chrome Hearts ed è in tour in questo momento. e poi naturalmente c'è la parte solista in solitaria, che è quella che riguarda questo album che vi propongo oggi. Dal 2006, scusate, ha iniziato a pubblicare album tratti dai suoi archivi, che sono immensi. Lui ha praticamente registrato tutti i concerti, ma anche moltissimi pezzi, moltissimi album che poi non ha pubblicato ufficialmente. E quello che vi presento quest'oggi è il suo ultimo album live, a meno che non ne sia uscito uno in questi ultimi giorni, perché con il Young non si sa mai. Si chiama Castle the Soundtrack e come dice il titolo, è la colonna sonora originale di un film dello stesso titolo che si chiama Castle, che racchiude concerti di Neil Young che ha svolto attraverso la costa ovest degli Stati Uniti, e il tutto filmato con la direzione di Daryl Hannah. Molti di voi la ricorderanno come la sirena di Manhattan, ma ha fatto anche altri film più interessanti, che è fra l'altro sua moglie, si è sposato qualche anno fa. L'album, lo ripeto, si chiama Coastal The Soundtrack, è stato registrato in diverse location durante il solo tour del 2023, e come vi dicevo Neil Young è sempre molto parco nelle sue note di copertina, però andando a spulciare su internet si trovano alcuni dei brani dove sono stati registrati, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato al The Ford, che è un teatro di Los Angeles, il 5 luglio del 2023. Il brano è quello che apre tutto questo album, si chiama I'm the Ocean, lui è Mr. Neil Young. See the chieftain. See see the Braves in cool moonlight. Who will love them when they take another life? Who will hold them when they tremble from the night? Voicemail numbers on an old computer screen. Rows of lovers parked forever in a dream. Screaming sirens echoing across the bay to those old boats from the city far away. Streets of their hometown, rows of zeros on a field that's turning brown. They played baseball, they played football under lights, they played card games, and we watch them every night. Need distraction, need romance and candlelight. Need random violence, need entertainment tonight. Need the evidence, want the testimony of expert witnesses to the brutal crimes of love. Too tired to see the news when I got home. Pulled a curtain, fell into bed alone. Started dreaming, saw the writer once again in the doorway where she stood and watched for him. I'm a drug that makes you dream. I'm an Aerostar. I'm a Cutlass Supreme in the wrong lane, trying to turn against the flow. I'm the ocean. I'm the giant undertow. I'm the ocean. I'm the ocean. I'm the ocean. I'm the ocean. Sono l'oceano, I'm the ocean, dice Neil Young ripetutamente in questo brano che, guarda caso, si chiama nello stesso modo. E nel caso di Neil Young solo è sempre abbastanza problematico per noi di lingua, non di lingua anglosassone originariamente, ma se andate su internet chiaramente potete trovare i testi come e quando volete, perché nell'album, in questo dischetto, non ci sono. Anche se ci fossero, Neil Young ha il vezzo di scriverli di pugno, proprio di proprio pugno, e non si legge mai, non si capisce mai quello che c'è scritto. Comunque, questo è un discorso che per il momento non ci interessa. Noi interessa appunto Neil Young, il suo ultimo album, e nel corso di questo tour che vi dicevo sta facendo adesso insieme ai Chrome Hearts, ha rispolverato un sacco di vecchie canzoni, probabilmente ci sarà un nuovo album live in arrivo. Questo invece è stato registrato nel 2023, in caso particolare al Ford, il 5 luglio del 2023, si chiama I'm the Ocean, Neil Young. Naturalmente è abbastanza facile il proseguo della trasmissione. Per i novizi dirò che la prima parte della trasmissione è sempre collegata alla novità che propongo in quella occasione. E quest'oggi naturalmente parleremo di covers di brani di Neil Young. Ne ha scritti tantissimi, tantissimi molto belli, alcuni un po' meno, anzi alcuni proprio brutti, ma comunque questo è un altro discorso. Sono tante anche le covers, decine, centinaia oserei dire di musicisti hanno coverizzato, brutto termine ma rende quello che voglio dire, i brani di Neil Young. Sono talmente tanti che quest'oggi faremo una rassegna di brani dalla A alla D. Poi naturalmente avremo, come dicevo, Neil Young è molto prolifico, avremo occasione di fare il seguito dell'alfabeto. Ad iniziare la tensione, diciamo così, molto amichevole per fortuna, arrivano due ragazze. La prima si chiama Natalie Merchant, ma in realtà si chiama Mercante, perché suo nonno era siciliano, emigrò negli Stati Uniti e ha inglesizzato il nome appunto da Mercante a Merchant. Viene da Jamestown, stato di New York, dal 1981 al 1993 è stata la cantante di una band che si chiama tuttora 10,000 Maniacs, band che poi dopo il sua dipartita ha assunto un'altra cantante. E dopo aver lasciato la band, che è sempre stato un po' rock, diciamo, lei si è votata un po' più al folk, ma onestamente mi pare che non abbia avuto il successo che sperava e che tutti auspicavano. Ha un grosso pubblico, uno zoccolo duro di nicchia, ma nient'altro. E tra l'altro anche lei ha organizzato diverse proteste contro l'elezione di Donald Trump, ma ancora una volta senza lieto fine. Ha fatto un solo album live, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato al Neil Simon Theater di New York City il 13 giugno del 1999. Uno dei brani inseriti in questo album per questa occasione si chiama After the Gold Rush, della title track dello stesso album di Neil Young del 1970. Natalie Merchant. Well, I dreamed I saw the knights in armor come, saying something about there were peasants singing and drummers drowning, the archers with the chief. There was a fanfare blowing to the sun that floated on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the night. I was lying in a burned up basement with the full moon in my eyes, hoping for a replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head and I felt life. saw the silver spaceships come in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen one. All in a dream, all in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver sea to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver sea to a new. Niente lacrime, non piangere, non voglio lacrime intorno a me, diceva Neil Young, ma in questo caso ripresa questa Don't Cry No Tears da Alison Moorer, una cantante che viene dall'Alabama, è attiva dal 1998 e per diversi anni è stata la moglie di Steve Earle, col quale abbiamo visto, almeno io personalmente ho visto in concerto al Vox di Nonantro nel maggio del 2005. Ha fatto un solo album live, che è questo che vi ho fatto ascoltare, si chiama semplicemente Show, è un combo, vale a dire un CD più DVD, ed è stato registrato al 12th and Port di Nashville in Tennessee nel giugno del 2003. Don't Cry No Tears arriva da un album che si chiama Zuma, era l'opening track di quello splendido album attribuito a Neil Young and Crazy Horse. Alison Moorer. Sono interrotto perché ormai è tempo di pubblicità, c'è il tempo solamente, scusate la ripetizione della parola tempo, per un altro brano. È un altro brano che viene dai Blitzen Trapper, una band di Portland, Oregon, attivo dal 2000, che la sera del 17 ottobre 2014 in casa, praticamente al Doug Fir Lounge proprio di Portland, omaggiò Neil Young rifacendo pedissequamente, come si suol dire, dall'inizio alla fine l'album che si chiama Harvest, uno degli album più belli non solo di Neil Young ma di tutta la musica moderna, chiamiamola così, album che ha avuto un successo strepitoso, pubblicato nel 1972. Il brano che ho scelto, sono tutti brani di Neil Young chiaramente, e la scelta è dovuta solamente a mere questioni di lunghezza. Il brano è fra l'altro famosissimo, si chiama Alabama, loro sono Blitzen Trapper. Pools with the best laid plans. Quasi tutte le jam bands americane, anzi direi tutte, hanno il vezzo la notte di Halloween di dedicare la serata, la set list a un artista, a una band che li ha influenzati, oppure addirittura un solo album di quest'artista o di questa band. E la punta di diamante di tutta questa storia sono i Gov Mule, grandissima band, ve l'ho già fatto ascoltare tante volte e tutte le volte mi spreco in superlativi, anzi non mi spreco, vado di superlativo perché se li merita veramente. La sera del 31 ottobre 2014 erano in concerto al Tufts Theater di Cincinnati, Ohio, e dedicarono buona parte della serata a Neil Young, non solo un album ma una serie di brani del cantante di Ontario, Canada. È un album quadruplo addirittura, il primo dischetto è composto tutte da canzoni dei Gov Mule, gli altri tre sono tutte canzoni di Neil Young, fra cui questa che ci siamo ascoltati, Carly in the Sand, una dei grandi classici di Neil Young, una cosa che è assolutamente, come dire, favolosa in tutte le versioni possibili e immaginabili che si possano ascoltare. Fra l'altro Cowgirl in the Sand fa parte del primo album di Neil Young, anzi del secondo, scusate, che si chiama Everybody This Is Nowhere, un classico inciso insieme ai White Crazy Horse nel maggio, e che è stato pubblicato nel maggio del 1969. E ci sono personaggi, musicisti per meglio dire, solitamente sono cantanti, chitarristi, che sono più famosi in Europa che nella loro madre patria, quasi sempre gli Stati Uniti. Qui in Italia pochissimo, ma nel nord Europa e soprattutto in Germania ci sono case discografiche specializzate, una si chiama Blue Rose, nel pubblicare album di questi personaggi che, come dicevo, vivono spesso volentieri in Europa, suonano più in Europa che negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Uno di questi si chiama Todd Thibault, viene da Burlington, nel Vermont, che è la città natale dei Fish, ma poi presto si è stabilito in giovane età a Boston, Massachusetts. Come dicevo, è più famoso in Europa, tanto che diversi album live che ha fatto sono tutti registrati in Europa, compreso questo che fa parte di una serie che si chiama Official Blue Rose Bootleg Series, appunto perché è pubblicata dalla Blue Rose, sì, ed è stato registrato in un locale del quale mi rifiuto di dire il nome perché è incredibile. La città però si chiama Neustadt, naturalmente in Germania, il 21 ottobre dell'anno di grazia 2000. Cinnamon Girl è il brano che ci andiamo ad ascoltare ed è la title track dell'album che vi dicevo prima, la prima traccia dell'album che vi dicevo prima, il secondo di Neil Young, si chiama Everybody Knows This Is Nowhere. Dopo tutte questi inceppamenti ce ne andiamo ad ascoltare Cinnamon Girl, lui si chiama Todd Thibault. Girl, sensible sexes, the bass with a bow, The drummer relaxes, waits between shows for his sentimental girl. The dreamer of pictures, I run in the night to see us together, chasing the moonlight. My sentimental girl. castles burning, just find someone who's turning, and you will come around. Il discorso che ho fatto prima per Totti Bo può essere tranquillamente fotocopiato per Joseph Parsons. Anche lui, malgrado sia nato negli Stati Uniti, nella East Coast, vive tutto l'anno in Germania, anche perché ha sposato una ragazza tedesca, ed è molto più famoso in Germania che in patria. Infatti anche lui, guarda caso, incide per la Blue Rose, e come questo album è stato registrato in Europa in diverse occasioni. Non è dato sapere quali e quando, però il brano che ci siamo ascoltati credo sia famosissimo, spero almeno che tutti lo conoscano. Si chiama Don't Let It Bring You Down, non farti abbattere, in poche parole, e arriva dall'album di Neil Young del 1970 che si chiama After the Gold Rush. Lui invece si chiama Joseph Parsons. If you run tonight, you're never gonna see what lies on the other side. Andiamo a concludere con un brano molto lungo, per cui siamo già alla conclusione di questa prima parte, con un grandissimo chitarrista che purtroppo non ha avuto il successo che meritava, e lasciamo stare il fatto che si sia suicidato in cella dopo essere stato arrestato per guida in stato di ubriachezza, ma correva l'anno 1988. Lui ha fatto 2 album live durante la sua vita, ma ne sono stati pubblicati molti di più dopo la sua morte. Questo si chiama Live at Town Hall ed è una versione espansa di un album che era uscito quando Roy Buchanan, e di lui che sto parlando, era ancora vivo. L'album si chiama Livestock, questo invece si chiama Live at Town Hall 1974, e comprende 14 canzoni che non sono state pubblicate nell'originale vinile di Livestock. Il brano che ho scelto per voi, come dicevo, molto lungo ma molto molto molto bello, è un classico. Anche in questo caso siamo all'inizio della carriera di Neil Young, Everybody This Is Nowhere, l'album al quale appartiene questa Down by the River. Roy Buchanan a concludere la prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi. take your hand, baby. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, la prima della nuova stagione 2025-2026 o 2025-2026, chiamatela come volete. Siamo al 27 agosto e abbiamo iniziato la seconda parte, come sempre, con la novità che vi propongo quest'oggi, l'ennesima uscita dagli archivi di Neil Young. Si chiama Coastal Soundtrack ed è, come dice il titolo appunto, la colonna sonora di un film diretto, fra parentesi, da Daryl Hannah, che è la moglie di Neil Young, che documenta il suo solo tour del 2023. Il tutto è stato pubblicato in questo album, che come vi dicevo in precedenza nella prima parte, come capita spesso per Neil Young, non ha granché di note di copertina, però andando a sfrugugliare in internet si riescono a trovare alcune date e alcune location. Purtroppo non è il caso di questa Love Hurt, che è il brano che ci siamo ascoltati. Non si sa né dove né quando sia stato registrato, ma si sa che ha sicuramente una grande partecipazione di pubblico per questa canzone, che è un inno all'amore per la terra, che è sempre un pallino di Neil Young. Qualche anno fa ai suoi concerti distribuiva magliette gratuitamente con appunto scritto Hurt sul petto, e ne ho due in casa. To the room of the paper doll. Ma come sempre anche nella nuova stagione, nella seconda parte arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nella giornata odierna nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tante cose, tantissime cose in questa giornata, per cui il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Are you feeling all right? E iniziamo subito la grandissima con un album che ha avuto un successo strepitoso, forse, anzi sicuramente, l'album di maggior successo di Jackson Browne, cantautore, come si suol dire, americano, anche se è nato in Germania, a Heidelberg, perché suo padre era un militare, però presto la famiglia si è trasferita a Los Angeles. Molto giovane iniziò a scrivere e a suonare, inizialmente insieme alla Nitty Gritty Dirt Band, ma rimase per poco tempo, e poi cominciò a scrivere per altre bands, fra cui anche gli Eagles, Take It Easy, un pezzo suo fra parentesi. Il primo suo album solo del 1971, e questo album live che si chiama Running on Empty, che è parzialmente live perché è stato registrato sia on stage che nel backstage che in camera di hotel in diverse occasioni, appunto. Questo però è direttamente dal palco, dal Meriwether Post Pavilion di Columbia in Maryland, il 27 agosto del 1977. Il suo brano forse più famoso, ma per quello che mi riguarda, quello che preferisco, Running on Empty. If I can get you to smile before I leave. brano di apertura nonché title track dell'album, del primo album live di Jackson Browne, anche se, come dicevo in precedenza, non è completamente live. Questa invece è stata registrata a Columbia, nel Maryland, credo che sia la capitale di quello stato, ma non sono sicuro. Era il 27 agosto del 1977. Come al solito cambiamo radicalmente genere musicale, passiamo agli anni 80, siamo nel 1982 con il terzo album live di una band fantastica che si chiamava Roxy Music. Loro sono stati attivi dal 1970 al 2022 con diversi stop dovuti alle carriere soliste dei vari membri. Hanno iniziato come una band abbastanza sperimentale, Brian Eno era nella prima formazione, poi sono diventati più soul e più mainstream e hanno avuto un successo strepitoso dappertutto. Come dicevo, questo album si chiama Heart Still Beating, è il loro terzo album live, è stato registrato Les Rennes, scusate il pessimo francese, e a Fréjus in Francia. In apertura di quel concerto, quella serata, c'erano i King Crimson, una serata da favola che poi è stata replicata anche qua in Italia ed è stata una serata veramente bellissima. Era, come dicevo, il 27 agosto 1982 e ci andiamo ad ascoltare questa A Song for Europe, Roxy Music. This one was written with you especially in mind, it's called A Song for Europe. Here as I sit at this empty cafe, thinking of you, I remember all those moments lost in wonder that we'll never find again. The world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the sail, not far down, cast a long, lonely shadow. Now but there always remains my obsession. Through silken waters, my color glides, and the bridge it sighs. We'll Finale epico con tanto di assolo di oboe di Andy McKay. Questi erano Roxy Music, scusate, stavo già pensando alla prossima trasmissione. Comunque erano Roxy Music, scusatemi ancora, registrati a Fréjus in Francia il 27 agosto del 1982, Song for Europe, il bellissimo pezzo che ci siamo ascoltati. Gli anni 90 sono rappresentati da una registrazione effettuata al Reading Festival del 1993 in Gran Bretagna, naturalmente, però la band americana viene da San Diego ed è attiva dal 1992, si chiama Stone Temple Pilots. Nella formazione vede i fratelli De Leo, chitarrista e bassista, Dean e Robert, di chiare origini italiane. Ha avuto qualche problema con i cantanti, nel senso che ne ha cambiati diversi. Scott Waitland è stato poi licenziato, espulso, perché si faceva anche un po' troppo. Chester Bennington è stato per qualche tempo insieme alla band e poi adesso invece hanno un nuovo cantante che sembra abbastanza stabile. Hanno fatto un solo album, un solo long play addirittura dal vivo, mentre hanno fatto diversi singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli. La canzone di punta è Sex Type Things, è stato pubblicato in due versioni, sempre con Sex Type Things in prima battuta, e a seguire tre canzoni live diverse, registrate tutte però a Reading Festival. Quello che ho scelto per voi è un pezzo di torta, si chiama Piece of Pie, loro sono Stone Temple Pilot, 27 agosto 1993. I broke the bread line, nobody una band molto particolare, questa che ha iniziato l'ultimo quarto, diciamo così, di Città Fujiko Live Club di oggi. Una band molto particolare che è stata fondata da un pazzo che si chiama Tim DeLauter, che dopo lo scioglimento della sua band che si chiamava Tripping Daisy ha pensato bene di mettere insieme una specie di coro, diciamo 5-6 cantanti che l'accompagnassero insieme a una band abbastanza normale. Però con il tempo, a forza di aggiunte, la band è diventata una mega band, quasi praticamente un'orchestra. E il coro è arrivato da 20 a 25 elementi a seconda delle serate, e con questa musica abbastanza corale, diciamo così, molto molto particolare ma veramente intrigante. Polyphonic Spree si chiama la band, e ha fatto diversi album live, fra cui uno che vi consiglio caldamente, che si chiama Songs from the Rocky Horror Picture Show. Avete già capito, malgrado il mio pessimo inglese, che sono canzoni tratte dall'opera che si chiama Rocky Horror Picture Show, veramente una cosa spettacolare, in questo caso con arrangiamenti incredibili. Qui invece abbiamo un singolo che si chiama Hanging Around, come la canzone che ci siamo ascoltati. Sono tre canzoni registrate alla Union Chapel di Londra il 27 agosto del 2002. Lo ripeto, loro si chiamano Polyphonic Spree, questo invece era Hanging Around. Un po' più ridotto, un quartetto che però di casino ne fa ugualmente, si chiamano Metallica, li conoscerete sicuramente meglio di me, vengono da San Francisco e sono attivi dal 1981, sono i paladini, se non gli inventori di quel genere chiamato thrash metal, come sempre però le definizioni lasciano il tempo che trovano. Anche per loro c'è un soundtrack, come nel caso di Neil Young, la novità che vi ho proposto quest'oggi. Si chiama Through the Never, Music from the Motion Picture. Sono due CD, è stato registrato in diverse location. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato alla Rogers Arena di Vancouver, nella British Columbia in Canada, il 27 agosto del 2012. È tostissimo, inizia veramente sparatissimo, non spaventatevi. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Come on! Hey! Come dicevo, Metallica del casino ne fanno, e anche in questo caso Vancouver il 27 agosto del 2012 con questo Fuel, che è uno dei loro super super classici contenuti in questo album che si chiama Through the Never, il soundtrack è un doppio CD registrato qua e là per gli Stati Uniti e poi racchiuso in questo film dal titolo omonimo. Andiamo a concludere sia Record Today che Città Fujiko Live Club di oggi, 27 agosto, con una cosa italiana. Prima però vi voglio ricordare che appunto vi siete ascoltati la prima trasmissione della nuova serie, chiamiamola così, 2025-2026 di Città Fujiko Live Club, il tutto dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonico di Radio Città Fujiko. E naturalmente potete trovarci anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it, nonché nelle zone limitrofe, nelle province limitrofe, anche tramite il DAB. Ma andiamo ad ascoltarci l'ultima cosa che arriva da una delle migliori band, secondo me la migliore band italiana di sempre, anche se negli ultimi anni lascia un po' a desiderare, ma comunque la premiata Foneria Marconi non si discute. Loro sono formati come premiata Foneria Marconi a Milano nel 1971, ma esistevano già da prima con la denominazione I Quelli, e hanno suonato anche, sono stati dei Sesso Men di Lusso, hanno suonato anche con i dischi di Lucio Battista e di tanti altri. Franz Di Cioccio, il batterista nonché cantante, è l'unico membro originale rimasto, hanno fatto molti album live, questo è l'ultimo, ve l'ho proposto come novità qualche mese fa, si chiama The Event, è stato registrato al Estival Jazz, un gioco di parole fra festival e estate, Estival Jazz di Lugano, il 27 agosto del 2022. Vi ringrazio per l'ascolto, naturalmente vi lascio in compagnia della premiata Foneria Marconi e di quel capolavoro che si chiama La Carrozza di Hans. Ciao a tutti da Nevio. Aspetta lontano, ora, piccolo uomo, signore del mondo, vai. La carrozza attende già, non ti fermare, la cassetta sali e va, non ti voltare. Suona un corno da cocchiere, lustra l'abito da re. Correrò